Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Si aprono gli impianti, ma durante le prime sciate può capitare che compaiano dolori muscolari dovuti a strappi, contusioni o contratture. A Obiettivo Salute il dottor Mattia Cappelletti, medico chirurgo esperto in nutrizione e sport, ci spiega cosa fare. In questi casi conviene fermarsi un attimo per cercare di capire che cosa sta succedendo, se il dolore è tanto, se il dolore aumenta o se il dolore diminuisce stando un pochino fermi. Avendo capito che la situazione non è grave da richiedere un intervento medico, a quel punto, se si tratta di una contusione, una botta, magari con un piccolo ematoma, si può agire con l'applicazione di una borsa del ghiaccio. Se invece si tratta di un problema più muscolare, quindi ad esempio una contrattura, a quel punto è più indicato l'utilizzo del caldo, quindi magari una borsa con dell'acqua calda. Invece, per tutte le problematiche muscolari, si può sempre utilizzare una pomata, un gel o una patch con un farmaco antinfiammatorio che hanno l'azione di ridurre l'infiammazione e quindi di favorire il recupero. Sulle pagine di Obiettivo Salute le regole per un buon riscaldamento. Le persone sposate o che vivono un legame di coppia stabile hanno un rischio molto più basso di ammalarsi di demenza rispetto a un celibe o a una nubile. È quanto emerge da una meta-analisi condotta da un team di ricercatori dell'University College di Londra. A Obiettivo Salute commentiamo la notizia insieme al professor Sandro Iannaccone, neurologo e direttore delle unità operativa di riabilitazione neurologica al San Raffaele di Milano. La lettura di questo dato potrebbe essere quella che esiste una zona grigia in cui c'è il rischio di ammalarsi di demenza. Cosa ci protegge in questa zona grigia? È una vita abitudinaria, una vita tranquilla, fatta molto di relazioni sociali, ed è una vita che ha dei tempi scanditi sempre uguali. Questo protegge un po' dall'ammalarsi di demenza, soprattutto in quelle situazioni dove il rischio c'è e quindi un'alterazione della propria vita, dei ritmi della propria vita, può portare verso la demenza. E quindi sostanzialmente a questa descrizione che ho fatto delle regole che proteggono dalla demenza è quello che sappiamo tutti essere la vita in famiglia, la vita di coppia. Sulle pagine di Obiettivo Salute le 5 regole per prevenire la demenza. E tra poco, come ogni giorno, vi aspetto in diretta video insieme a Gwendalina Graffigna. Scopriamo chi e che cosa condiziona le nostre scelte di vita. La programmazione di Radio 24 invece prosegue con Melog. Noi ci sentiamo domani per un nuovo appuntamento di Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno. Buona giornata da Nicoletti.